Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di Alessandro D'Avenia, che con il suo secondo libro cerca di bissare il successo di Bianca come il latte, Rossa come il sangue. Il suo ultimo romanzo si intitola Cose che nessuno sa, sempre pubblicato da Mondadori. Anche questa volta i protagonisti sono adolescenti. Margherita, 14 anni, deve affrontare il distacco dal padre. Ma sentiamo l'intervista a D'Avenia realizzata da Maria Piera Ceci. Il secondo romanzo di Alessandro D'Avenia, Cose che nessuno sa. Siamo qui in compagnia dell'autore. Buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Allora, Bianca come il latte, Rossa come il sangue, il tuo primo romanzo, il secondo Cose che nessuno sa. Cominciamo a raccontare l'esperienza che tu racconti in questo libro. Protagonista, tanto per cambiare, una ragazza, Margherita. Una ragazza che però passa per un'esperienza molto drammatica. Ecco, ci vuoi raccontare un po' il senso di questo libro? Sì, io sono profondamente innamorato dell'Odissea, che è il testo che ha, diciamo, iniziato la nostra letteratura occidentale. In quel testo i primi quattro libri sono dedicati a un ragazzo che cerca suo padre. Tutti pensiamo che siano dedicati a Ulisse, invece no, sono dedicati a Telemaco. Allora la mia sfida era raccontare cosa può essere oggi l'Odissea, e mi sono reso conto che quello che viene fuori è un'Odissea allo specchio, al contrario, cioè non è più Ulisse che vuole tornare a Itaca, ma è Margherita, questa ragazzina, che scopre attraverso un messaggio alla segreteria telefonica che il padre non tornerà più a casa perché ha deciso di andare via. Allora si mette in viaggio con una compagnia un po' scalcinata, come accade con Telemaco, che fa tutto di nascosto nell'Odissea, e va alla ricerca di questo padre. E questa avventura, che come tu dicevi all'inizio sembra drammatica, sarà proprio lo spunto per la trasformazione di questa bambina in una donna. Il suo stesso nome, Margherita, vuol dire perla in latino, e quindi è la trasformazione di questa ragazzina di 14 anni in una vera e propria perla. Ecco, sempre i ragazzi, no? Protagonisti dei tuoi romanzi, perché ti interessano così tanto? Ma credo che sia deformazione professionale, essendo insegnante, questo è il 12° anno di insegnamento, le storie che respiro ogni giorno in classe sono quelle dei miei ragazzi, e ti assicuro che la scuola, ogni giorno di scuola, dà adito a non so, un centinaio di romanzi. Le avventure che accadono ogni giorno in classe sono infinite. Dietro ogni ragazzo c'è una storia che al solo ascoltarla varrebbe la pena raccontarla in un romanzo. Sono storie di famiglie che hanno spesso situazioni difficili o anche storie belle, e quindi io racconto questo mondo perché è il mondo che so raccontare, però faccio poi di questi protagonisti, adolescenti, ragazzi, il motore perché il mondo attorno a loro, che è quello degli adulti, si metta in movimento, prenda posizione. Quindi è vero che tutto parte da protagonisti adolescenti, ma poi sono coinvolte tutte le fasce d'età. Ecco, infatti, quanto c'è della tua esperienza di insegnante nei tuoi romanzi? Penso che ci sia molto, no? Tu rubi dai tuoi ragazzi, dalle famiglie che incontri. Sì, sì, sì, tutto nasce da spunti e appunto, respirati durante le ore di lezione. Basta uno sguardo di un ragazzo per capire che dietro c'è un mondo. L'adolescenza è un'età per eccellenza di crisi, ma dico io di crisi benedetta, perché se questi ragazzi non vanno in crisi non cominciano a crescere. La parola crisi, scusa se faccio un po' il professorino, viene dal greco, vuol dire giudicare, quindi non è una cosa negativa, è cominciare a capire quanto spazio occupo nel mondo, giudicare chi sono e che storia sono venuta a raccontare. Io ho il privilegio dalla cattedra di vedere nei 5 anni in cui li accompagno questa trasformazione di piccoli mostri ancora informi in, non dico degli uomini e delle donne definiti, però uomini e donne che forse si affacciano sul mondo del lavoro, della famiglia, con una consapevolezza, come scrivevano i greci sul tempio, no? Conosci te stesso, su quello che sono venuti a fare su questa terra. Una trasformazione, una crescita che però avviene, almeno nei tuoi due romanzi, sempre attraverso eventi traumatici, no? Eventi fortissimi. Nel primo romanzo si parlava di una malattia molto grave, c'è un epilogo anche drammatico, e in questo secondo romanzo l'abbandono da parte del padre. Secondo te la crescita deve passare sempre attraverso queste esperienze così forti, così difficili? Ne farei volentieri a meno, però la mia esperienza personale, quella dei tanti ragazzi che incontro, mi dice che il dolore e i traumi ci sono parte di questa vita, e la dobbiamo smettere di nascondercelo. e vedo che i ragazzi che si trovano ad affrontare queste situazioni non avendo gli strumenti per farlo, è come se ricevessero una scossa, un'accelerazione nel loro percorso di maturazione. Ragazzi che però alla fine ce la fanno sempre. Nei tuoi due romanzi l'epilogo per certi versi è anche drammatico, però comunque i ragazzi crescono, diventano degli uomini, delle donne ben definiti, insomma tirano fuori una forza molto particolare dentro di loro. Quindi tu sei ottimista, tu che vivi in mezzo ai ragazzi, insomma li vedi belli, li vedi capaci di crescere. Allora la letteratura sempre ama raccontare le cose così come potrebbero essere, diceva Aristotele, no? Quindi a me piace anche un po' sognare che alla fine ci sia sempre un paradiso alla fine dei miei romanzi, e forse proietto questi finali nell'aldiquà nei miei romanzi, ma forse mi riferisco a qualche cosa che va al di là di questa vita. Questa vita è piena di luce e di ombre, ogni capolavoro è fatto di questo, di luce e di ombre. Non conosco capolavori della pittura che siano fatti o solo di ombre o solo di luci. E da 34 anni cerco la maniera di poter abbracciare questa vita che spesso mi abbatte, e quello che scopro è che tutte le volte che ci troviamo di fronte appunto a cose che nessuno sa, come recita il titolo del romanzo, la soluzione è quella di stringersi un po' più vicini a chi sta vivendo questi momenti, e questo per me è l'ottimismo. E tutto questo mi viene dal fatto che io ho avuto un maestro che indirettamente mi ha insegnato questa cosa. Ho avuto la fortuna al liceo che ho frequentato a Palermo di avere come professore di religione di questa scuola padre Giuseppe Puglisi, Pino Puglisi, che proprio il quarto anno del liceo non è più tornato in classe perché era stato ucciso. E non era un uomo da effetti speciali, un uomo straordinario, era un uomo estremamente ordinario. Eppure quello che diceva in classe lo viveva fuori dalla classe, e questo ha trasformato una città e un liceo intero. È un uomo che, pur sapendo con chi aveva a che fare, era sempre ottimista, e poteva sembrare un po' naif. Allora a me questo ottimismo mi viene da questo esempio, che c'è sempre qualche cosa da poter fare e si può dare la vita per gli altri come ha fatto lui, non in maniera però cruenta, non ne sarei capace, ma giorno per giorno provando a fare qualcosa di più di quello che è strettamente dovuto dal proprio stipendio, che francamente se no... Ragazzi che comunque ti sembrano belli, no? Dicevamo, sì. Ti sembrano tutti molto belli. Gli adulti un po' meno, no? Nel tuo romanzo, beh, ad esempio in questo qui, in Cose che nessuno sa, c'è un padre che abbandona la famiglia in maniera anche molto maldestra, senza annunciare, senza preparare nessuno, eccetera. Un insegnante che non capisce la situazione, abbandona questa ragazzina facendole correre anche dei grossi rischi. Insomma, gli adulti non è che ne escano tanto bene dai tuoi romanzi. Ma io quello che vedo tutti i giorni, ma per me stesso, no? Che quando ormai hai acquistato un ruolo sociale ben definito, la tua vita, diciamo, è entrata dentro un binario ormai codificato, e lo sguardo si spegne. Cioè in qualche maniera diventiamo meno capaci di guardare la realtà come la guardano i bambini, con questi occhi stupiti, no? Io ce l'ho un po' con Il Piccolo Principe, che è uno dei miei libri preferiti, che dice appunto che l'essenziale è invisibile agli occhi. Io invece credo che l'essenziale sia visibilissimo agli occhi, a volerli usare. Solo che volerli usare significa che io devo entrare nel merito di quelle 20 vite che ho di fronte. E quello che vedo attorno a me è che ci sono adulti, una minoranza, disposti a farlo, e quelli che sono disposti a farlo sono quelli che sanno che cosa ci stanno a fare al mondo. Quelli meno disposti a farlo forse perché loro stessi sono incerti sulla loro identità, sulla loro storia, no? E quindi magari per paura poi fanno fatica ad affiancare i ragazzi. Quindi io non è che voglio dare un ritratto negativo degli adulti, nei miei romanzi ci sono anche adulti molto forti che sanno quello che fanno, però diciamo statisticamente vedo nell'interagire con famiglie, con colleghi, che non sempre è così, quindi cerco di raccontare la realtà così come la respiro. Grazie mille Alessandro D'Avenia. Grazie a te. E questo era Alessandro D'Avenia in libreria con Cose che nessuno sa, intervistato da Maria Piera Ceci. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.